Boca Chica Cosmodrome. Boca Chica Cosmodrome. Boca Chica Cosmodrome. Senza l'eco. La prima sfida era trovare 30 membri dell'equipaggio capaci di affrontare lo stress di un confinamento prolungato e la coscienza che non sarebbero tornati. La soluzione? Allevare un nostro equipaggio, cresciuto in isolamento perché non gli manchi la terra. Abbiamo fatto in modo che crescessero così per la loro salute mentale, perché non gli manchino gli spazi aperti, la luce del sole, la gente. Boca Chica Cosmodrome. Boca Chica Cosmodrome. Nella pelota facciamo insieme. Lo dici, siamo sempre. E bentornati a Boca Chica Cosmodrome. Siamo ancora qui, sempre con problemi tecnici, sempre di nuovo a questa trasmissione. Alla 11, Bimo, ciao. Ciao, io come al solito ormai è diventata una tradizione, non sento niente, ma di solito lo risolvo e anche questa volta ho grande fiducia. No, bene, insomma, dai, ci siamo sicuramente online. La cosa assurda è che invece di migliorare, è vero, traumatico, colpa nostra, colpa nostra. Beh, bentornati alla 11ª puntata di Boca Chica, che tra l'altro non lo diciamo ancora, però poi vi sveleremo un piccolo segreto su questa puntata. Bimo, mi vuoi aiutare a ricordare un po' di indirizzi? Intanto troverete tutti i podcast delle puntate andate in onda sul sito del Forte, che del quale non mi ricordo l'indirizzo, che è forteernestito.net, su cui trovate il di Radio Forte e dentro trovate i podcast di tutte le trasmissioni, anche il player per ascoltare in diretta gli streaming delle dirette della radio, ma soprattutto ci trovate dentro i podcast di Boca Chica. Addirittura 10 a questo punto, 10 che diventeranno 11 domani. Se questo esattamente saremo all'undicesimo. Siamo dentro Forte Prenestino, trasmettiamo in diretta da Forte Prenestino, secondo corridoio in fondo a destra, dove trovate la scritta On Air illuminata in rosso. Beh, Boca Chica 11, Boca Chica lo sappiamo, è un programma radiofonico che racconta di, parla di capitalismo spaziale e che stende il nostro antagonismo oltre la biosfera terrestre. Dico ben oltre. Ai comandi, le leve, le pulegge, Bimo, appunto, ciao a tutti. Bimo, di che cosa abbiamo parlato? No, fino adesso. Facciamo un altro ciclo di 5 puntate di riassunto delle precedenti 10. Ce lo evitiamo. No, di cosa abbiamo parlato nella scorsa puntata, perché è stata un po' un nodo cruciale. Abbiamo parlato di terraforming, ma in un'ottica diversa da quella che la fantascienza ci propone di solito, un'ottica che è in buona parte dovuta al lavoro di un intellettuale del nostro tempo che ha rovesciato un pochino l'ottica e ha introvertito un pochino il concetto di terraforming. Grande citazione, grazie. Prego, sei molto gentile. Beh sì, allora assolutamente è vero, in parte è vero, ma insomma che è un lavoro che abbiamo fatto insieme, è un lavoro su cui stiamo ragionando insieme. Sì, terraforming nel senso di un concetto che va a sostituire il concetto di ecologia, perché in qualche modo il capitalismo ha sempre terraformato il pianeta a seconda di quelle che erano le sue esigenze. Eh sì. Questa volta che siamo in pieno capitalismo spaziale, lo fa in una modalità che è molto più simile al concetto, alla modalità in cui noi intendiamo il terraforming quotidianamente. Sì. Che è quello della trasformazione di un pianeta alieno in qualche cosa che assomigli sempre più alla Terra. O trasformazione della Terra in qualcosa che si avvicini a un pianeta. Esatto, perché se dobbiamo ragionare sulla fabbrica estesa che va abbiamo parlato la scorsa puntata sulla zona abitabile, una fabbrica estesa che va dai limiti di Venere ai limiti di Marte, probabilmente la Terra diventerà punto centrale con una serie di trasformazioni che abbiamo colto come marcatori nelle trasformazioni del cosiddetto antropoceno. Stasera faremo una cosa simile, no? Nel sì. senso, così come abbiamo tirato fuori i marcatori dall'antropoceno, i marcatori per il capitalismo spaziale, tireremo fuori dei marcatori dal capitalismo spaziale per quelle che sono le trasformazioni del corpo, e il concetto generale sarà quello di transumanesimo. Esatto, esatto. Inteso da ottiche diverse, come vedremo, però è non trasformiamo più un pianeta, ma trasformiamo la nostra specie in qualche modo. Sì, così come trasformiamo il nostro, come abbiamo trasformato il nostro pianeta, ci stiamo apprestando a trasformare sicuramente la nostra specie. Che cosa abbiamo sentito all'inizio, prima della sigla? Io niente, veramente. Niente, perché come me stavamo incasinati, come al solito. No, io ho ancora la cuffia morta. Sì, anche io non sento la mia voce, spero che arrivi dove arrivare, però vedo che i cursori si alzano. Sì, è vero, devo aver sfondato tutto prima quando ho tirato quando quel capo. Tirato, sì. Un gran casino. Un disastro, sì. Comunque, diciamo, fondamentalmente il film è Voyager, non so se tu hai visto. Sì. 2021, non credo che sia lo stesso di cui parlo io, del 2021. No. Voyager del 2021, che è praticamente un film che parla di viaggi generazionali, questa specie. Però è molto interessante perché lo vogliamo risentire, io te la rimando, perché così secondo me così ne possiamo parlare in maniera più informata. La prima sfida era trovare 30 membri dell'equipaggio capaci di affrontare lo stress di un confinamento prolungato e la coscienza che non sarebbero tornati. La soluzione? Allevare un nostro equipaggio, cresciuto in isolamento perché non gli manchi la terra. Abbiamo fatto in modo che crescessero così per la loro salute mentale, perché non gli manchino gli spazi aperti, la luce del sole, la gente. Bimo, non l'hai sentito di nuovo perché la tua cuffia di nuovo non funziona. Prova ad attaccarti qui al mixer, guarda, facciamo questa prova. Facciamo, rendiamo tutti consapevoli di quello che stiamo provando a fare. Sì, quello vai. Mi senti? Oh, perfetto. Allora riandiamo con la citazione, così la senti e ne parliamo. Sei pronto? Questa volta speriamo che ci sia. Questa volta sì. La prima sfida era trovare 30 membri dell'equipaggio capaci di affrontare lo stress di un confinamento prolungato e la coscienza che non sarebbero tornati. La soluzione? Allevare un nostro equipaggio, cresciuto in isolamento perché non gli manchi la terra. Abbiamo fatto in modo che crescessero così per la loro salute mentale, perché non gli manchino gli spazi aperti, la luce del sole, la gente. Ci sono già tutti gli elementi di cui parlavamo in realtà, pensi. Eccoli qua. In realtà c'è la specie allevata, la specie umana allevata per vivere nello spazio, attrezzata per vivere nello spazio, quindi confinata all'interno di uno spazio chiuso, perché in quello vivrà, soprattutto se si tratta di una missione generazionale in cui almeno una, due, se non tre generazioni vivranno dentro l'astronave prima che i loro nipoti e pronipoti poi arrivino a destinazione. Certo. Interessante, sì, molto molto molto interessante. E quindi l'abbiamo detto, questo è il tema. Però io ti ho mandato questa citazione, per sbaglio te ne stavo mandando un'altra, che poi in realtà era la citazione che ti volevo mandare dopo avertene mandato tre volte quella iniziale. Che era sbagliata? No, era giusta, okay. Però in realtà in scaletta abbiamo anche un'altra citazione, quindi forse è stato un po' inutile, ma insomma ascoltati pure questa. Non servirà più cercare di rimodellare i pianeti a nostra immagine. Basterà evolvere l'umanità verso le stelle. Immaginate, con alcuni piccoli miglioramenti potremo respirare quell'aria, nuotare in quelle acque e sopravvivere al freddo. Forse Titano potrebbe diventare casa nostra. Beh, è un film non bellissimo. No, devo dire. Non lo è, infatti. Un film per la televisione, Titan. Sì, del 2018. Visto. Non tutto, devo dire, a un certo punto hai gettato la spugna, sì. No, io me lo sono visto perché il concetto di base è molto interessante. Si passa dall'idea di terraformare il pianeta a terraformare l'essere umano. Assolutamente. Quindi un film biopolitico, per i cultori della biopolitica, un film assolutamente biopolitico in tutto e per tutto, e tutta l'importanza che questo concetto riveste da Foucault in poi. Non è Foucault che se lo inventa, ma insomma da Foucault in poi. Titan, dicevamo, The Titan 2018, quindi un la film bruttino foucaultiano, esatto, un brutto film foucaultiano, trasformazione dell'essere umano in vista del diventare, divenire forza lavoro interplanetaria, che poi è il corrispettivo della, del terraformare Terra, quindi della trasformazione del pianeta Terra in qualcosa che assomigli mediamente sempre più all'idea di una fabbrica estesa multiplanetaria. E quindi sì, e quindi siamo caduti, come dire, a bomba, come si suol dire, su quello che è la tematica che tratteremo questa sera, che è quella sostanzialmente del biopotere. L'abbiamo detto, fondamentalmente tratteremo di transumanesimo, che io, come penso, immagino anche tu, riteniamo un concetto un po' vuoto, se non riempito di prospettive capitaliste, come invece faremo noi. Per questo che l'altra volta, come l'antropocene, che anche quello è un concetto abbastanza vuoto, l'abbiamo usato solo per quanto molto di moda, sì. L'abbiamo usato solo ed esclusivamente nei suoi marcatori, e per il transumanesimo faremo la stessa cosa. La umanizza. Sì, assolutamente. E allora io farei un salto un attimo indietro e inizierei proprio da Foucault. Cioè da Sorvegliare e punire di Foucault, perché da lì si parte per riconsiderare la centralità e l'importanza del corpo, dell'idea di corpo. Che cos'è il corpo? Non lo sappiamo. In realtà il corpo è qualcosa al momento in cui lo inquadriamo all'interno di un sistema di produzione. Questo ci dice. Libro Sorvegliare e punire, che non so se tu hai letto, no. Fondamentale, diciamo, del primo Foucault, quello che io apprezzo di più, in cui si spiega che a un certo punto, quando c'è un modo di produzione in cui il corpo è in esubero, tipo il modo di produzione feudale in questo caso, il corpo viene dilaniato, cioè una delle dimostrazioni del potere è quello di strappare, dilaniare il corpo quando il corpo va pulito, da cui sorvegliare e pulire. Quando invece nel capitalismo, nella prima società industriale, il corpo diventa più essenziale, più fondamentale, si passa a una risorsa più scarsa. Esatto, ma è una risorsa assolutamente, diciamo, non trascurabile. No. E diventa praticamente un viene rieducato, e quindi nasce la prigione, nasce il panopticon, la prigione così come la conosciamo, che in qualche modo poi si, come dire, si fortifica e diventa ancora più chiara. Un po' inquietante come prospettiva, nel sì. senso che la prossima, probabilmente la prossima fase economica non avrà bisogno di tantissimi corpi. Beh, ce l'avrà, se è vero quello che abbiamo detto nelle puntate scorse, ce l'avrà bisogno per diventare massa critica di consumatori sparsi nell'universo. Speriamo, perché se no ripartono le dilaniazioni. Beh, sicuramente oggi il corpo, vista l'automazione totale verso la quale ci stiamo dirigendo, ha molto meno peso, tant'è che gli spingimenti e i morti che si fanno nei mari in qualche modo rappresentano un esubero di corpi che il capitalismo tratta come scarto, assolutamente scarto. E proprio sull'esubero ti voglio far sentire una citazione che diciamo a cui tengo parecchio. Ingegnere, lei poco fa ha confermato che la GIAR sarebbe in grado in 5 anni di automatizzare la produzione industriale nel nostro paese. Questo significa che oltre 6 milioni di lavoratori, tra operai e impiegati, perderanno il loro posto di lavoro. Che cosa avverrà di tutta questa gente? Naturalmente tutto ciò avverrà in modo graduale. Per ora il problema è limitato ai lavoratori delle prime industrie automatizzate. Quindi è più esatto dire che saranno i primi ad essere liberati dalla necessità di lavorare per sopravvivere. Si tenga presente che con l'automazione delle industrie i profitti aumenteranno in modo incalcolabile. Saremo così in grado di dare ad ogni cittadino che non ha più bisogno di lavorare un sussidio doppio del salario prima così faticosamente conquistato. Per concludere, amici e compagni giornalisti, parliamoci chiaramente. La macchina è oggi in grado di eliminare dalla storia umana sia i servi che i padroni, sia gli sfruttati che gli sfruttatori. Mi scusi, ma cosa faremo quando le macchine lavoreranno al nostro posto? Andremo in pensione a 20 anni? Lei cosa farebbe? Non mi dica che non piacerebbe anche a lei aprire gli occhi al mattino senza l'incubo della sveglia e trovare un mezzo pubblico a sua disposizione, magari un elicottero, per condurla non in quella dannata fabbrica o all'ufficio, ma alle Canarie o, non so, sulle nevi del Plateau Rosà. Vivo, film di culto che non so se tu hai visto, si tratta di Silvano Agosti, il famoso Silvano Agosti, diciamo regista underground, molto politicizzato. NP Il Segreto, non so se no, tu l'hai visto, visto, un film interessante, di diciamo, una specie di autoproduzione di fantascienza del 71, assolutamente da vedere, di cui si parla di automazione totale e della fine che fanno gli operai dopo la promessa di un Eden che in realtà non sarà mai ottenuto. Quindi si passa per questo che non è un discorso che poi è caduto in disuso, tra l'altro. No, tra l'altro nel film si passa film che assolutamente vedetevi, si passa per questa idea intanto del salario garantito, diciamo una sorta di reddito universale, e poi vabbè non svelo come va a finire in realtà, ma non finisce bene, però il film è costruito in una maniera veramente fantastica. Silvano Agosti, lo ripeto, NP Il Segreto, 1971. Vabbè, io te lo facevo sentire, siamo usciti un po' fuori tema anche perché ti volevo parlare di automazione, ma adesso arriviamo assolutamente al punto. Ci siamo arrivati attraverso Foucault perché abbiamo dato una definizione biopolitica di corpo. Perché se noi crediamo a Foucault e quindi che il corpo e noi crediamo a Foucault che il corpo è sostanzialmente biopolitico, possiamo tranquillamente credere che il corpo venga di volta in volta terraformato da quello che è il modo di produzione, quelle che sono le urgenze del modo di produzione e delle fasi del modo di produzione. Beh, insomma, l'abbiamo anche detto, il corpo probabilmente tornerà anche di moda ben presto, perché tornerà nella forma di massa critica del supporto vitale nello spazio del capitalismo spaziale. Oggi è una delle possibilità. Oggi in esubero, ma probabilmente un domani. Sperabilmente. Molto utile per far sì che le colonie spaziali non vengano affamate. Ma di questo ci parli tu dopo, secondo me, un po' meglio quando tratteremo un tema un po' più fantascientifico. Allora, ti faccio sentire una citazione e poi partiamo con la trasmissione vera e propria, perché insomma. Il tempo stringe. Ci siamo. Nei prossimi 7 mesi il vostro corpo sarà esposto a una dose di radiazioni 200 volte superiore a quella ricevuta in un anno sulla Terra. Il calcio nelle ossa diminuirà e la loro massa si ridurrà del 10% prima ancora di raggiungere Marte. Non c'è test che sia in grado di dire se l'idea di essere a 60 milioni di chilometri dal pianeta su cui siete nati possa disintegrare la vostra mente oppure no. Alcuni di noi, se non tutti, quasi certamente moriranno in questa missione. Durante il decollo, in fase di atterraggio, oppure giunti sul nuovo mondo. Bimo, sigla e poi partiamo. Allora Bimo, come si sta trasformando, come si trasformerà il nostro corpo in vista di questa fabbrica allargata, in vista del nostro accesso come forza lavoro nello spazio? Iniziamo con la Mars Society, che è un argomento che a te piace tanto. Cosa fanno? Cosa fa la Mars Society? La Mars Society propone la colonizzazione di Marte dal, diciamo, dai primi anni Ottanta. È nata come una associazione studentesca che si chiamava Mars Underground, che voglio dire, come nome funzionava molto meglio, però poi l'hanno cambiato e si sono trasformati appunto nella Mars Society, che ha comunque mantenuto l'ardire, perché... Che ha comunque l'ardire, stavi per dire? No, l'ardire. Si sono mantenuti, hanno mantenuto una dimensione molto vicina all'università e quindi sono anche il loro, come dire, il loro leader spirituale, il loro caro leader, Robert Zubrin, è un super accademico, non so quante lauree abbia, non so quanti articoli. Tra cui Occhi Spiritati. Sì, beh, quella diciamo è una laurea, diciamo, un honoris causa che gli hanno dato. Chiunque pensa a Marte agli Occhi Spiritati, esatto, secondo me. Sì, chi più chi meno. In tutti questi anni ha sviluppato sia una serie di operazioni. Io personalmente sono venuto in contatto con la Mars Society vedendo le immagini di alcuni personaggi che, vestiti con delle tute spaziali evidentemente fatte in casa, sembravano un po' i vestiti da Zorro che si facevano a Carnevale negli anni 70 più o meno, si aggirano nel deserto fingendo di prelevare dei campioni, ma in un modo assolutamente, diciamo, si può dubitare della loro sanità mentale vedendo, limitandosi a quelle immagini. Fanno delle simulazioni. Sì, dopodiché, appunto, documentandosi meglio, effettivamente tutte queste operazioni assumono un senso diverso, perdono un po' quel loro alone di mascherata, di semi-infermità mentale che di mascherata, parliamoci chiaro, sì, che hanno, tra l'altro, agli occhi di moltissimi turisti che adesso negli ultimi anni hanno cominciato a contaminare la finta Marte in cui i finti astronauti fanno delle finte ricerche. I turisti sono veri e quindi sono un problema a questo punto. Guarda, in questo momento vedo vicino a te l'anima di Baudrillard che fa così con la testa, simulacri e simulazioni. Dice, bravo. Beh, Bimo, bravo. Il caso particolare è anche abbastanza facile, perché veramente siamo nell'apoteosi di tutto ciò. Hanno due finte basi che sono degli analoghi di una base spaziale sostanzialmente, una nello Utah e una in Canada, molto vicino al circolo polare artico e molto vicini ad un cratere che gli permette anche di far finta di essere su Marte, appunto. Il cratere è uno degli ambienti iconici, diciamo, di Marte, no? Soprattutto per chi ha visto la serie di Mars, esatto, che sa che una prima colonia umana dovrebbe vivere su Marte all'interno dei canali lavici o sì, di esatto, buchi. I condotti lavici che sono stati poi, tra l'altro, molto studiati dalla Mars Society. Ci sono fior di articoli, io non ho avuto l'ardire effettivamente di leggere proprio quelli. Ma ci siamo arrivati all'ardire, fantastico. Vedi, alla fine sono riuscito a dirlo. E però appunto al di là di queste operazioni che hanno una loro validità, la NASA ha dei contatti e ha in qualche modo integrato proprio nell'allenamento astronautico. Esatto, la cosa divertente visti dall'interno è che quello che si fa in queste basi più che altro è esplorare il lato un po' burocratico della vita nello spazio, nel senso che anche quello psicologico. Beh, le due cose sono collegate in qualche modo, perché l'attenersi scrupolosamente a delle procedure ha anche delle ripercussioni poi sulla psicologia delle persone, e è proprio questo attenersi a delle procedure, ci sono il briefing prima di uscire dalla base, poi c'è la decontaminazione, ovviamente tutto questo è completamente una simulazione perché non c'è nessun rischio al di fuori della base, ma è una sorta di gioco di ruolo. Forse c'è il COVID. sapevo di ferirti dicendo all'epoca il COVID cosa. Non c'era ancora. Okay. Beh, poi nel deserto dello Utah forse i turisti hanno aumentato di qualcosa. Ti volevo prendere in giro, ci sei cascato con i piedi. L'altra volta lamentavi che la mia citazione. Vabbè, non ne parliamo, dai. Lo so, ma a questo punto ormai i bei tempi sono finiti. Il dato è tratto, va bene. E dicevo, oltre a queste attività che vanno anche al di là in realtà di queste due basi, perché ci sono dei progetti che vengono portati avanti dalle varie sezioni della Mars Society, che sono sparse praticamente in quasi tutto il mondo. Ce ne sono in Germania. In Germania stanno per esempio sviluppando un pallone aerostatico che dovrebbe volare su Marte, per dire. Ci sono delle competizioni per l'università per costruire dei rover. Beh, su questo ti interrompo un attimo, c'è una bellissima competizione che, ahimè, fatta dalla NASA, dal nostro nemico, tra virgolette, che è quello di costruire dei rover a pedali, per una competizione tutti gli anni. Fantastica. Per costruire dei rover a pedali per Marte. Adesso non mi ricordo esattamente. Una cosa buona. Sì, una cosa buona, di inquinare anche. Sono riusciti a inquinare anche le biciclette. Ma no, non è vero. Hanno pedalizzato i rover. Dai. Gioco. Sei troppo voglio dire, sei sono troppo, ti prendo troppo alla lettera. No, sei troppo morbido con la NASA, però sto scherzando, sì, Bimo, dai. Lo so. E dicevo, però al di là di tutte queste attività scientifiche, tecniche sul campo, secondo me il grande contributo della Mars Society è un contributo di documenti che sono stati prodotti nei svariati decenni ormai di attività della società, e che affrontano questioni scientifiche, tecniche, ma anche questioni legali, questioni etiche. Per esempio, parlavamo di terraforming nella puntata precedente, e il problema di terraformare un pianeta quando si sia trovata una forma di vita su quel pianeta non è del tutto trascurabile, e appunto la Mars Society in alcuni articoli affronta questo problema e lo risolve dicendo che i batteri purtroppo la Mars Society in realtà è il lato civile, diciamo, no? Perché lì sia la NASA che il Pentagono, che oggi negli Stati Uniti si occupano insieme alle società private di spazio, in realtà non sono il Pentagono, è chiaro, ma neanche la NASA è praticamente così civile, ma molto legata ai settori militari. Quindi fondamentalmente si tratta di un buon esempio di autodeterminazione. Assolutamente. Il fatto che questi problemi vengano posti e vengano discussi è di per sé un passo avanti. Poi gli esiti della discussione, chissà, possono essere discutibili a loro volta, però il fatto di averne parlato, il fatto di essersi posti il problema in termini diretti, senza giri di parole, andando diretti al problema, è comunque ammirevole, secondo me. Allora, diciamo, Mars Society, che quindi comincia ad allenare gli operai per quello che sarà il loro compito di sussistenza e di lavoro nello spazio, perché in qualche modo li comincia ad attrezzare. Sì, questo è una parte. Per esempio, lavoratori. Io ho detto operai, ma insomma, lavoratori. No, ma diciamo che l'ambizione della Mars Society è anche quella di formare la classe dirigente, se vogliamo, perché per esempio sempre lavoratori sono sempre forza lavora. Sempre forza lavora è. No, io volevo aggiungerti questo aspetto, perché poi presidente in realtà, operaio, mi ritorno alla mente. Operaio. Perché poi in realtà in Europa c'è un'esperienza molto simile che si chiama ESA Cave, in realtà, che è il modo con cui gli astronauti dell'ESA si allenano in Europa, che è molto diversa da certi punti di vista, ma persegue gli stessi obiettivi, che è quello di far allenare gli astronauti, in questo caso astronauti, all'interno delle grotte. Ma perché gli astronauti europei si chiamano astronauti anche loro e non abbiamo trovato un nome? Ci sono i taikonauti, gli euronauti, non lo so come definirli, però non so, perché non tutto ciò che c'ha davanti euro è brutto, secondo me, ma non perché sia brutto l'Europa, sì, in ma sé, poi non ha senso, Europa, ma poi non ha senso, euronauti non ha molto, no. C'è cioè qualcosa che sia che identifichi il lavoratore spaziale europeo rispetto. Non ce l'abbiamo, ci siamo adeguati come in tutto a quello che, che sono i dettami delle isoglosse statunitensi, e quindi li chiamiamo astronauti. Neanche, pur partendo dalla Russia, molti si continuavano a non li chiamavano cosmonauti, ma si chiamavano astronauti. Vabbè, sì, mi ricordo che qualcuno cercò di farlo notare all'ESA. Non andò tanto bene, però. No, l'ESA ha fatto orecchie da mercante. E l'ESA Cave hanno iniziato, tra l'altro questa è una sorpresa, allenando i propri operai spaziali nelle grotte, nelle incursioni carsiche della Sardegna. Quindi l'ESA Cave ha iniziato, adesso poi si è spostata ultimamente, non è più in Sardegna, non mi ricordo esattamente dove, però diciamo l'inizio avviene proprio nel nostro paese, che è la Sardegna. Allora, così come abbiamo trovato dei marcatori che andavano bene per capitismo spaziale all'interno dell'antropocene, dicevamo, noi troveremo adesso dei marcatori che vanno bene per quella che è la trasformazione della forza lavoro nello spazio, e te ne propongo alcuni che sono proprio all'interno del programma dell'ESA Cave. Allora, perché un astronauta dovrebbe chiudersi all'interno di una grotta? Che già questo secondo me è molto interessante, no? Lo spazio paragonato ad una grotta, cioè, no? Invece quello che un po' dicevi tu quell'altra volta a proposito della Cina, quando si pensa allo spazio come all'infinito fondamentalmente, invece poi in realtà ci rendiamo conto che nello spazio siamo schiusi e stretti e angusti all'interno di piccoli ambienti fondamentalmente, che non sono il nostro supporto vitale, e il terraforming in questo è appunto rivoluzionario, perché invece in realtà è proprio l'idea di riaprire all'interno dello spazio. Beh, insomma, allora a richiudere sulla Terra. Ci si chiude all'interno delle grotte per familiarizzare con un ambiente sconosciuto, familiarizzare con una oscurità permanente, quella per prendere confidenza con la mancanza di parametri temporali, quello per alterare il ritmo circadiano e quindi per produrre disturbi del sonno. Questo tutto perché? Perché nello spazio tutte queste cose avvengono come nelle caverne, non certo. È finita. Alterazione sensoriale e di deprivazione sensoriale proprio, come se fosse una camera di deprivazione. Diciamo situazione di privacy limitata, spazi piccoli in cui tanti astronauti devono condividere gli stessi. Bastava chiudere tutti in un sommergibile, parliamoci chiaro. In parte sì, però in realtà non è finita, infatti. Aspetti sociali e culturali, dimensioni di equipaggio, perché i team in realtà sono internazionali. Dentro ci troviamo dai giapponesi della JAXA appunto a Roscom, quindi i russi, ci troviamo appunto anche ESA e NASA. Risorse limitate e anche spazi per l'igiene molto limitata. Isolamento e comunicazione isolata rispetto al mondo esterno. E soprattutto, questo forse nei sommergibili è meno evidente, reale pericolo fisico, perché quando si sta all'interno di una grotta si corrono continuamente il rischio di scivolare. Anche non sommergibile, anzi. Sì, sì, diciamo, forse l'ergonomia ha fatto dei passi da gigante dagli anni 50, da quando ce li ricordiamo noi, no? Non penso. Almeno quelli che ho potuto vedere non erano tanto moderni, ma non erano ergonomici neanche un po'. Assolutamente. Ultimo aspetto, limitata capacità di interruzione della missione in caso di salvataggio. Quindi insomma si sa che se ci si fa male bisogna sopportare e aspettare, così come nello spazio. Ecco, questi sono alcuni elementi che non riguardano tanto la trasformazione del corpo, ovviamente ancora non siamo arrivati a quel punto nel nostro racconto, ma miriamo di arrivarci, però che equiparano quelli che sono i test e i processi di allenamento che abbiamo qui sul nostro pianeta per formare la forza lavoro nello spazio. Quindi sulla Terra già esistono degli ambienti predisposti, tu ne citavi uno, sono i deserti, le cave, le grotte, certo. sono degli altri. A questo punto ti mando un contributo a te familiare che sarai tu a spiegare. Mi dispiace che la gravità di un pianeta vero ti faccia male, ma è giusto così. Tu vuoi ferire la Terra. La Terra che ora schiaccia i tuoi deboli polmoni di centuriano e le tue fragili ossa di centuriano. C'è un solo modo per porvi fine ed è parlare. Sei un terrorista dell'APE. Trasportavi tecnologie stealth di contrabbando. A cosa serviva? Bimo, a cosa servivano queste tecnologie stealth di contrabbando? Questo... Ci sono... 6 stagioni di telefilm per spiegarlo, forse non ce la facciamo oggi, no. Ma delle puntate a venire sicuramente. Sì, sicuramente, sì. Avremo tempo, anche perché The Expanse, che è la serie da cui è tratto questa citazione, tornerà perché ha tanto da dire e tante questioni da affrontare, propone, quindi. Nel caso particolare ci troviamo di fronte ad una situazione in cui un essere umano viene torturato semplicemente essendo lasciato apparentemente senza nessuna costrizione sulla Terra. Cioè la Terra uccide un essere umano che però, pur essendo indubbiamente un essere umano, non è un terrestre ma è il risultato di generazioni persone che si sono adattate a vivere nello spazio e hanno, e quindi in condizioni di gravità molto bassa, nel caso particolare è la cosa più eclatante, e quindi sono diventati degli stranieri nel pianeta che li ha generati, che è un po' qualcosa che sulla Terra conosciamo bene, con l'Homo habilis, con il Neanderthal. Sì, diciamo, lo conosciamo bene. Sono passati però quelle svariate decine di migliaia di anni per un po' smussare le memorie. Però i coloni, diciamo, di cui noi abbiamo una memoria più recente, i coloni che andavano in terre lontane, comunque tornati nella madre patria, non rischiavano la morte. Questo mentre invece c'è nei viaggi spaziali, nella permanenza dell'uomo nello spazio. Ci arriviamo. Non anticipare che stai facendo un salto di scaletta. No, non anticipare. No, in realtà no, aspetta, fammi finire. Secondo me stai anticipando, vabbè, però fai come ti pare. Proviamo. Vai. Stavo dicendo, da una parte c'è un prepararsi allo spazio, quindi l'ESA Cave, quindi la Mars Society, quindi il Titan, quindi modificare l'umano prima che vada nello spazio, ma dall'altra parte c'è anche quello che succede, malgrado tutto, in seguito alla permanenza nello spazio, che rende quindi l'umano diverso. Ma infatti la domanda era quella, diciamo, questi centuriani che vengono citati, fondamentalmente è vero che si trasformano in base alle differenze che troveranno nei luoghi in cui che abiteranno, però chissà se quell'umanità di The Expanse, non credo che questo sia spiegato né nei libri né nella serie, in realtà già erano stati adattati. No, precedentemente no, a vivere nello spazio. No, ancora, insomma, invece noi, per quello che dicevo, che secondo me stavi anticipando, perché invece noi in realtà ci arriviamo per gradi e il prossimo grado sarà proprio quello della bioingegneria e della biologia di sintesi, ma non prima, anzi, di aver sentito un pezzo. Bimbo, questo è un pezzo piaciuto, questo pezzo? Bello, come al solito lo interrompiamo, un pezzo di cui non so nulla. Più sono belli più lo interrompiamo prima. È un pezzo di cui non so nulla, però è un pezzo russo, di un gruppo russo. Vabbè, adesso diventeremo più precisi su questo. Shazam. Perdonatemi, sì, trovatevelo. Allora, torniamo un po', usciamo dalla fantascienza, rientriamo all'interno di quella che è la sperimentazione che avviene su Terra rispetto alle trasformazioni che lo spazio apporteranno. C'è un esperimento del 2015 che è durato esattamente un anno, che è l'esperimento conosciuto come l'esperimento dei due gemelli. Tu ne sai qualcosa? Sì, l'ho letto su un libro di un intellettuale italiano. Il solito. Sono i gemelli Kelly, di cui uno dei due resta sulla Terra, tutti e due astronauti, uno dei due resta sulla Terra come come individuo di controllo, mentre l'altro viene spedito nello spazio a bassa gravità per un anno. Quando l'altro gemello, quello stato nello spazio, tornerà sulla Terra, è già tornato sulla Terra, verrà fatta una comparazione genetica per capire dei due appunto DNA messi a confronto lo spazio quanto ha mutato il fratello spaziale rispetto all'altro. È un esperimento che è avvenuto, come dicevo, nel 2015, già finito, 2016 è finito, e il biochimico, genetista e investigatore genomico che si è occupato poi di fare questa verifica, si chiama, tra gli altri, uno dei tanti, si chiama Christopher Mason, che ha appunto preso il DNA di Scott Joseph Kelly, il fratello andato nello spazio, mentre quello rimasto a terra è Mark Kelly, e si è messo lì a guardare cosa era cambiato. Insomma, il DNA era parecchio mutato, però gran parte del DNA mutato è poi tornato allo stato originario, tranne un 7% che è rimasto definitivamente alterato nel fratello andato nello spazio. Questo viene chiamato subset di geni, fondamentalmente, e ha proprio un nome, si chiama Space Gens in inglese. E Benson ha affermato, questa affermazione interessante, che dice che quando nel DNA di un individuo il 7% di questo DNA muta, si è in presenza di una mutazione di specie. Quindi fondamentalmente lo spazio produce una mutazione di specie, e probabilmente è quello che è accaduto anche in Expanse. Sì, diciamo, nel caso di Expanse la mutazione avviene somaticamente nell'arco di generazioni, quindi possiamo immaginare anche sia più profonda. Sì, tra l'altro forse gli scrittori sono stati anche ottimisti, perché insomma, se un anno ha cambiato così tanto il DNA di una persona, certo, nello spazio, evidentemente, certo, forse non basta, non servono neanche così tante generazioni per mutare la specie e trasformarla in qualcosa di completamente diverso. E stiamo sempre parlando fondamentalmente di biopolitica, cioè di quanto il corpo sia in realtà elastico, di quanto il potere incida su di esso trasformandolo e rendendolo qualcosa di adeguato alle sue urgenze e alle sue efficienze. E siamo sempre sul capitale spaziale, quindi stiamo parlando di corpo che si adatta al capitale spaziale. Abbiamo citato Christopher Mason tra gli investigatori genomici, ma c'è un altro, c'è George McDonald Church, che è un famosissimo genetista in realtà, che sta lavorando proprio in questi anni, sta lavorando l'elaborazione anche lui di una specie di set di geni spaziali, fondamentalmente, e tra questi ne sta in qualche modo selezionando alcuni che farebbero, che come dire, rafforzati o comunque inseriti in qualsiasi operatore, in qualsiasi elemento di forza lavoro spaziale, ne farebbero un lavoratore spaziale perfetto. Uno di questi, adesso io non ti cito i nomi, solo alcuni te li cito, ma insomma, uno di questi geni sarebbe per esempio la resistenza alle radiazioni, ovviamente alle radiazioni cosmiche, perché fuori dal campo elettromagnetico terrestre noi sappiamo che le radiazioni sono molto molto forti. Sono molto forti e non c'è attualmente un modo per schermarle. Esatto. Anche perché non sono propriamente radiazioni. L'acqua, le feci sono dei buoni schermi. Lasciamo perdere. Lo so, vabbè. Perdere la astronave media, esatto. in cosa si trasformerebbe ossa particolarmente resistenti, questo l'abbiamo visto, perché in bassa gravità o gravità zero si ha perdita di calcio, quindi si ha una decalcificazione delle ossa, quindi selezionare geni che in realtà ripristino il calcio nelle ossa è fondamentale per i viaggiatori e per coloro che lavorano a gravità zero, a bassa gravità. Poi c'è l'ESPA1, che è proprio un gene che consente, diciamo che è anche conosciuto come il gene delle popolazioni tibetane, che è quello di quel gene che consente ai tibetani di vivere in ipossia, cioè in presenza di meno ossigeno rispetto a quello di quanto abbiamo noi. Sì, la cosa divertente è che questo gene è anche in una specie umana che non è la nostra, non è l'Homo sapiens e non è neanche il Neanderthal, sono Denisoviani, sì, ok, che sono poi daranno luogo alla specie cinese, diciamo, asiatica. No, Denisoviani sono è una linea che si è interrotta come Neanderthal. Ok, va bene. Solito razzista verso i cinesi, una specie, una linea interrotta dal sapiens. No, perché sono sapiens come noi e più di noi, non sono assolutamente Neanderthal. No. Poi c'è il gene ABC11, che in realtà è un gene che possiedono coloro che hanno un sudore a basso impatto. Un basso impatto odoroso, il che dovrebbe servire molto negli spazi chiusi, tipo le navicelle, come dicevamo, insomma, lo spazio è probabilmente. Chissà i cinesi come sono messi. Cosa diranno? C'è una interessante TED da potersi vedere, ve lo consiglio, lo consiglio anche a te, di una genetista biochimica che si chiama Lisa Nip. Ora, Lisa Nip non l'ho potuto campionare perché parla in inglese, quindi fondamentalmente era inutile. A parte che io lo capisco poco, ma insomma, no, diciamo, vabbè, comunque è tradotto. Quindi voi. È tradotto. Questa è un po' così una frecciatina al nostro pubblico che. Che non parla inglese, quindi no, era a me stesso, caro pubblico, voi non parlate inglese. No, era assolutamente a me stesso, perché insomma, diciamo, nel parlato lo capisco poco. Comunque sottotitolato, cercatelo, perché si chiama Come gli esseri umani. Anzi, io tra l'altro non abbiamo ricordato che noi abbiamo il canale Telegram a cui vi potete scrivere. Ah, giusto. A cui aggiungeremo Lisa Nip e il suo intervento al TED, che è Come gli esseri umani potrebbero evolversi che si potrà commentare solo in inglese. Ok. Come gli esseri umani potrebbero evolversi per sopravvivere nello spazio. Guardate, è molto interessante. Lei sostiene che in realtà noi siamo ad un passo dal farlo, e lo faremo soprattutto mischiandoci al DNA di quelli che sono gli esseri estremofili. Vuoi dirci qualcosa sugli estremofili? Ma guarda, io abbiamo una spilla che abbiamo avevamo pure messa in palio, ma non l'ha voluta nessuno. Nessuno l'ha voluta. C'era un tardigrado. Esatto. Che è un po' l'icona dell'essere estremofilo terrestre. È l'estremofilia cosmica operaia. Esatto, che abbiamo detto in puntate precedenti aver colonizzato la Luna ormai da mesi, se non anni, e grazie a un incidente, che è un esempio di esserino. Una forma di vita in grado di sopravvivere a condizioni per noi immaginabili. Inimmaginabili e anche in grado di aspettare che le condizioni ritornino ad essere favorevoli per un periodo di tempo molto molto lungo. Fantastico, io a questo punto ti mando una citazione che a te piacerà molto. Allora, cosa devo salvare? Va bene. Vedi quel povero saltarocce laggiù? Nasconde di essere un cinturiano con un'ampia tuta di volo. Vedi come la sua pelle pende dalle ossa. Ti diventano gli occhi rossi e tremi quando il tuo corpo rifiuta gli ormoni della crescita. Anche quando bevi un po' troppo whisky? No, hai tremori, amico. È cresciuto in bassa gravità. I muscoli non si sviluppano bene. Dipende da generazioni vissute in bassa gravità. Un giorno penso che ogni cinturiano avrà quell'aspetto. Dimmi di te. Cosa vuoi sapere? La tua storia. Ti aiuto io a conoscerla, Inia Loda. Vedi, lui ha gli speroni sulla colonna. Le ossa non si sono saldate bene per un siero scadente avuto da bambino per la densità ossea. Probabilmente è sotto tutela della stazione. Quindi anche se cerca di nascondersi, è proprio come me. Bimo, si è sentito la botta finale del tuo della tua barra spaziatrice? La barra spaziatrice che fermava il video. Che sì. Fermava il video. Ma come caspita campioni tu queste cose? Io sono un principiante, quindi ho spento. A riga di comando, mi hai detto. Quindi... Sì, però non ho spento il microfono. Un super professionista. Sì. È quello il problema. Il super professionista il microfono lo spegne. Esatto, e io invece no. E quindi abbiamo i campionamenti di Bimo che sono completamente contaminati dall'esterno. Io volevo rispondere velocemente a colui che ci sta scrivendo sul canale Telegram, che vuole sapere della storia UFO che un tempo avevo promesso di raccontare, ma non è questo il momento, la racconteremo in altre puntate, anche se diciamo l'intervento è molto, molto sospetto di colui che ci scrive. Insomma, Lisa Lippe, andatevi a vedere il suo intervento perché parla di tante cose di cui stiamo parlando, ma ne parla in una prospettiva scientifica molto più, molto meno fantascientifica, cosa che noi stiamo facendo un po', tenendo un piede un po' nella scienza, un po' nella fantascienza, proprio per cercare di spingerci anche oltre i ricercatori genomici. Tra l'altro, appunto, per lo stesso Christopher Mason, che sta lavorando alla verifica, investigatore genomico che lavora alla verifica delle differenze dei due gemelli Kelly, diciamo che credo i gemelli Kelly, che credo ancora, su cui ancora si stia lavorando, sta lavorando proprio questo, sta cercando di mischiare, impastare quello che è il DNA umano con il DNA dei tardigradi, quindi degli estremofili, insomma. A proposito della citazione che abbiamo appena sentita, introduce un'altra dimensione nella trasformazione umana in seguito alla permanenza nello spazio. Abbiamo visto una trasformazione che viene fatta in vista della colonizzazione dello spazio, una trasformazione che avviene in seguito a cause naturali, nel senso della permanenza in ambienti diversi da quelli della Terra. La citazione che abbiamo appena sentito introduce un'altra fonte di mutazioni che è dovuta all'appartenenza di classe, cioè chi non si può permettere un siero che gli fa... Che bello, mi sei piaciuto tantissimo. Hai visto? Mi sei piaciuto tantissimo. È lì apposta, io per questa l'ho proposta stasera. Chi non si può permettere, e questo si ricollega a un discorso che noi facevamo qualche puntata fa, quello che noi sulla Terra diamo per scontato, che è un diritto, l'aria, l'acqua, che invece nello spazio diventano una merce sostanzialmente, e in qualche modo nell'arco di generazioni muta e porta sul suo corpo il segno di questa sua appartenenza in qualche modo, no? Sì, sì, ma è interessantissimo. Tra l'altro sono appunto tre aspetti di evoluzione, tra virgolette, evoluzione controllata da un certo punto di vista, pilotata dai modi di produzione, che si intrecciano, che probabilmente anche quelli si impastano, si mischiano fino a incidere e a trovare materia fertile su un corpo che, abbiamo detto, è biopolitico, quindi non è un corpo definito una volta per tutte. Quindi quando ci chiedono ma che cos'è l'essere umano, beh, l'essere umano, ahimè, si definisce in relazione al modo di produzione che lo sostiene, e quindi è in questo molto elastico, molto molto molto trasformativo, e quindi non ci deve affatto sorprendere il fatto che andremo a vivere nello spazio, a lavorare nello spazio, grazie proprio alla triade di mutamenti che Bimo portava. Allora, nella prossimo spezzone di trasmissione avremo un ospite telefonico fantastico, che abbiamo sempre avuto come, esatto, contributore di elementi cosmo anticapitalisti, Andromalis, che mentre vi sentite questo pezzo dei Jaga Jazzist, che durerà un po' di più per forza di cose, sì, ma perché proprio loro durano tanto, noi contattiamo Andro, preparati. E beh, questi erano i Jaga Jazzist, fantastici. All I Know Is Tonight, pezzo a modo suo fantascientifico spaziale. Ma io spero stabilisce anche un record di durata di un pezzo a Bocca Chica Cosmodo. È vero, questa era la riflessione più profonda che è venuta in questo intervallo. Sì, gli va riconosciuto. Esatto. Io spero che dall'altra parte del cavo ci sia Andromalis. Andro. Clatu Barada Nicto. Oh. Clatu Barada Nicto. In diretta per questa volta. Assolutamente. Io non ho pensato a metterti la sigletta perché. Come mi senti intanto? Ti sento malissimo, ma aspetta, non aspetta che proviamo. Perché che io ti sento con il cuore, non con le orecchie. Va bene, allora così. Allora io intanto rallento, così forse mi senti un po' meglio. Lo abbasso anche un pochino. Tu mi abbassi un pochino sperando che la qualità. Vabbè, diciamo che la qualità va bene, tanto con Andro ci capiamo. Andro, intanto il cuore. Io ti ringrazio pubblicamente perché sei stato un contributo splendido per questa assolutamente. Per questa trasmissione. E tra l'altro i tuoi spezzoni sono stati, noi qua come dire non buttiamo mai niente e riutilizziamo tutto all'infinito, sono stati anche usati nel canale Facebook dell'UFO Ciclismo, tra un po' te li ritroverai sulla Rai negli spot pubblicitari, perché in realtà appunto ne abbiamo fatto tesoro, il regalo con i cornflakes. Esatto, ne abbiamo fatto tesoro, quindi grazie intanto di questo. E la prima domanda è proprio questa in realtà. Cosa ci spronano a fare questi fumetti di fantascienza che sono conflittuali fondamentalmente? Allora, innanzitutto io ringrazio voi perché mi state dando fama intergalattica. Assolutamente. Ovviamente sto collaborando con radio di altri pianeti e di altre galassie. Per quel che riguarda la domanda su questi fumetti conflittuali di fantascienza, non so che cosa tu abbia detto perché non ho capito niente, per cui inventerò, perché il mondo dell'8-bit al quale noi partecipiamo comunque sempre è bello esattamente per questo. Dove portano questi fumetti di fantascienza? Immagino che tu abbia chiesto questo anche se non l'ho sentito. Allora, te la ripropongo. Cosa ci spronano a fare i fumetti di fantascienza conflittuali o underground? Dipende da chi tu sia. Per esempio, io mi sono fatto questa domanda da solo stamattina e mi sono dato anche questa bellissima risposta che ha due teste. La prima testa è la tua. La tua testa ti porta verso lo spazio, alla ricerca di uno spazio da condividere con il proletariato intergalattico, mentre la mia testa invece, il mio sguardo, mi porta a guardare all'interno dell'ombelico del proletariato terrestre che guarda, nella metafora della fantascienza, se stesso e la propria sorte. Ma allora scusami, diciamo... E lo vedi? Cosa vedi? E questa è la nostra eterna discussione. Sì, beh, Andro la pensa come me. Ma allora, fondamentalmente, se la fantascienza in qualche modo gira intorno a una serie di problemi che noi affrontiamo già nel quotidiano, no? Qual è lo scopo ontologico finale, finalistico, se vogliamo, del fare qualche cosa diverso che si chiama fantascienza? Quindi dovrebbe avere uno statuto diverso, dovrebbe farci sognare, dovrebbe farci prefigurare e costruire qualche cosa di alternativo, se in realtà invece il suo limite è restare all'interno di aspetti circoscritti del presente. Anche qui ho una risposta a due teste. La prima testa è la tua. La tua risposta è una risposta realistica. Poi per quanto possiamo essere noi realistici, soprattutto io e te, Bimo, per quanto possiamo essere realistici. Okay. Cioè è una risposta alla realtà, al futuro, al destino. Tant'è che tu cerchi continuamente di sottolineare la materialità, la concretezza di un'utopia. Mentre per quel che riguarda me, non è questo, è il sabotaggio dell'immaginario collettivo, ossia il sabotaggio della visione della realtà che ci viene imposta, sia la visione sia la realtà. Per cui il tuo è molto più concreto e politico, il mio invece è proprio sul, come dire, non tanto sul linguaggio che sembrerebbe una cosa da professori della tristezza infinita, ma proprio sull'immagine della realtà che viene data. La mia battaglia, la battaglia di certa fantascienza è proprio quello di sabotare, anzi tu diresti hackerare l'immaginario. Ma allora qualsiasi tipo di interferenza secondo te è fantascienza? Sì, A mio avviso sì. Tutto ciò che è sabotaggio della realtà è fantascienza. D'altra parte si chiama fantascienza, cioè quello di immettere all'interno della scienza, facciamo una cosa, di immettere all'interno della scienza, identificando la scienza come qualcosa di razionale, di immettere qualcosa di fanta, di qualcosa di inaspettato. Quindi, come dire, di mettere un intralcio, ecco, alla visione delle cose, del potere. Allora, a me questa visione convince molto. Io tra l'altro sono convinto che anche la fantascienza di destra, esplicitamente di destra, sia in qualche modo antisistema, no? In modo diverso, con prospettive diverse. Certo che sì. Ma con la stessa voglia, in fondo, di rompere. Allora ti faccio questa domanda. Che senso... No, loro vogliono... Aspetta, loro vogliono evertere. Noi vogliamo sovvertire. Ok, sono d'accordo. Allora, la domanda è questa, preparati, la domanda è questa. Ma se in fondo la finalità è simile, no? Comunque l'analisi che si fa della realtà è simile per poi giungere a conclusioni ovviamente completamente diverse. Allora, la battaglia che nel 77 fece ad esempio una rivista come Un'ambigua Utopia, no? Che è stata la prima all'interno del movimento operaio di cercare di sottrarre dalle grinfie della destra l'egemonia della fantascienza. Ecco, allora questa battaglia che senso ha avuto se poi in fondo la fantascienza è sempre a modo suo eversiva? No, perché la fantascienza non è a modo suo eversivo per niente. Voglio dire, c'è una differenza impressionante tra voler essere, o meglio, c'è una differenza immensa tra l'essere eversivo e tra l'essere sovversivo. A me quello che interessa è l'utopia fantascientifica che mi piace, sulla quale mi piace surfare, quella della sovversione, cioè quella di rovesciare il tavolo, o meglio, oh madonna, mi è venuta bellissima questa, di rovesciare il piano inclinato della realtà. La fantascienza di destra non può farlo, nessun uomo di destra può rovesciare veramente il tavolo. Tutti gli uomini di destra vogliono impossessarsi del tavolo, perché non sono in grado di vivere nel tavolo rovesciato. Mentre gente come noi, che vive a 8 bit, i nudisti dello spazio che siamo noi, invece siamo abituatissimi, per noi è normale. Sì, nudisti o estremofili, ti riconosci? Nudisti dello spazio è bellissimo. Ancora di più. Ok, quindi diciamo siamo tutti degli estremofili e nessuno è più estremofilo degli altri. Allora, diciamo, arriviamo un po' al punto, è che per fare della buona fantascienza ci vuole dietro un progetto politico. Su questo, per esempio, secondo me sarebbe molto in disaccordo Bindi, Valerio Bindi, che con te è un tuo fiancheggiatore insieme ad altri in Planet Mongo, no? Diciamo la tua ultima invenzione radiofonica, e sarebbe forse molto in disaccordo con noi, perché vedrebbe in questo una sorta di processo maiacoschiano, no? una fantascienza guidata non libera, ma guidata da un progetto lui. La sovversione non penso abbia bisogno di un progetto coerente, no? Non tanto un progetto. Bravo Bimo. Non tanto un progetto nel senso di finalistico, ma di una fantascienza orientata. Cioè, nel senso, quando scrivo fantascienza devo stare attento al tipo di valori che ci sto inserendo per far sì che quel racconto sia un racconto politicamente attraente, interessante e soprattutto funzionale a una trasformazione. Ma state diventando un po' troppo concreti per quel che mi riguarda. Non guardare me metaforicamente. Sono molto più un surfista della luce rispetto a quello che è stato detto in questi ultimi 10 secondi. Senso che a me piace più stare in bilico sulla tavola, sull'onda della luce. Non ho tutte queste finalità così potenti, così forti. Sì, diciamo che emerge un po' da sé la cosa. Guarda che Bindi è molto più nudista di quello che voi pensate. D'altra parte cito proprio Cobol. Alla fine Bindi è un po' un fricchettone del cazzo. Ti prego, non ti mettere a difendere Bindi. Ti prego, non lo fare. L'importante è rimanere sempre contro Bindi. Questo, esatto. Mi raccomando, Cobol. Io e te, che siamo stati tacciati da Bindi di essere alla fine due bolscevichi. Esatto. Per quello dico, dobbiamo non ti mantenerci seri, difendere Bindi. Allora, Andro, ma come si comunica la differenza, l'alterità e la voglia di mutamento, più con l'immagine o più con le parole? Ma il mio sogno è quello di eliminare completamente le parole, è quello di sostituire il linguaggio dei nostri, delle nostre parole, dei nostri lemmi, con un linguaggio iconico. Cosa che tu hai fatto, tra l'altro, nel tuo ultimo lavoro, Dottor Nexus. Sì, nel mio fumetto, nel mio fumetto, ultimo adesivo, Nexus, che è il più venduto, il fumetto fallimentare più venduto nel mondo, nei mondi, anzi. Esatto. E il tentativo è quello di sostituire un linguaggio che a mio avviso è molto colpevole, che è un linguaggio di giustificazione, un linguaggio di rappresentanza del sistema capitalistico, è proprio di annullarlo, di abbatterlo e di giocare con l'altro grande sistema linguistico capitalistico, cioè quello dell'immagine. Come piace dire a me, che ho 53 anni, quindi ho studiato tanto per arrivare a dire questa stronzata, un linguaggio della stessa forma e sostanza pop della pubblicità, che è l'unico vero flusso di database che parla veramente il linguaggio capitalistico. Io voglio impossessarmi di quello, cioè proprio prendere quel flusso di dati. Adesso citerò Philip Dick, che per me è quasi più importante di Valerio Bindi, Filippo, quasi più importante. Lui in Valis anche lui. Lui in Valis inventa questa divinità che tra l'altro lui immagina una sorta di fumo rosa, come un enorme gigantesco flusso di dati. Ecco, per me è esattamente questo il capitalismo, è un flusso di dati, noi dobbiamo impossessarcene e dobbiamo hackerarlo, dobbiamo viralizzarlo virandolo verso le nostre peggiori intenzioni, cioè quelle alla fine del nudismo, dell'uguaglianza delle anime degli uomini. Sai, è per questo che io voglio giocare su quel linguaggio. In Dottor Nexus la vera storia non è tanto quello che succede, di massacri, di colori, di lampi e di stelle. La vera storia è la storia del logo della multinazionale, che ovviamente rappresenta la cattiveria più assoluta, la trasformazione, il sabotaggio grafico di quel logo. Perché fin quando il logo rimane bello, è una mela d'altra parte, e ogni riferimento è puramente voluto, finché rimane una mela rossa con un occhio celeste ariano al centro, tutto va bene, tutti consumano. Quando Dottor Nexus o l'altro protagonista, che è una Pussy Riot, lo trasformano in qualcos'altro, cioè in una mela nera dentata o in un torsolone di mela mangiato, allora lì le cose cambiano, perché la gente vede un'altra cosa. È lì che bisogna agire proprio nel logo, nel messaggio, nell'immagine, mostrare la vera mostruosità. Io non so se questo è il mio scopo, ed è per questo che è più importante l'immagine delle parole, e forse le parole ormai sono immagine. Allora, non so se te l'avevo già detto, forse sì, a me, leggendo Dottor Nexus, guardandolo, veniva anche in mente questo parallelismo che nella fantascienza è molto, molto presente: il fatto che ad un certo punto nei film arriva la cosiddetta spiega, no? Tu sai, la spiega, ecco, in quelli brutti, se non altro. La spiega, cioè il fatto che, siccome alcune cose, dei presupposti del film sarebbero così complessi da mettere in scena, o diciamo tecnicamente troppo difficili da mettere in scena, c'è un personaggio generalmente che a un certo punto comincia a dire: bene, ve la ricordate quell'astronave con quelle scimmie gigantesche, mostruose, che avevano una lingua lunga 2 metri? Cose di cui che non vedremo mai, ma che si sono raccontate. Questo fa generalmente di un film di fantascienza un film scadente, perché appunto la spiega è qualche cosa che va a coprire una serie di inadempienze della sceneggiatura. Ecco, il tuo fumetto mi dà proprio questa impressione, cioè mi dà l'impressione di essere un fumetto contro la spiega, no? Contro l'alfabetizzazione. Però la domanda non era questa, la domanda era sul concetto di deturnamento che tu prima utilizzavi rispetto, per esempio, al flusso pubblicitario. Ma allora, noi qui a Boca Chica abbiamo fatto addirittura una puntata proprio sulla differenza tra Lenin e Bogdanov. Anche pensando di vedere la pubblicità, perché un pochino ci manca. Esatto. Due modi di vedere la rivoluzione bolscevica completamente diversa. Lenin, da un certo punto di vista, più realista, quindi più disposto, meno disposto a fare a pezzi la cultura borghese, ma appropriarsi di alcune cose che della cultura borghese possono essere mutate. Bogdanov è più invece propenso alla distruzione totale. Ecco, tu in questo sei più leninista. Ovvio che sì. Okay. Ovvio che sì, cioè alla fine dietro questo ubriaco fricchettone c'è sta il leninista, purtroppo è così. Va bene. Gratta gratta al comunista viene fuori il leninista, si sa. Mi dispiace dirlo, faccio come dire questa confessione, però è così. Senti, che esigenza c'è oggi come oggi di mettere a nudo, visto che tu parlavi di nudità, di porno a questo punto, a mettere a nudo l'underground italiano con una trasmissione, diciamocelo, molto, molto cruda come Planet Mongo? Cruda perché l'ospite di volta in volta si sottopone a un tiro incrociato di domande, la trasmissione non concede molto poco ad estetismi e a imbellettature, al contrario della nostra, al contrario della nostra che è tutta spottini musichettine, certo. E che quindi è costretto necessariamente dagli interlocutori che poi cambiano, si moltiplicano, sono sempre di più, sempre di meno, a mettersi a nudo nel suo essere elemento funzionale dell'underground, ma funzionale a cosa? Quindi la necessità di mettere a nudo perché è funzionale, quindi a cosa? A un processo rivoluzionario, un processo di trasformazione nel quale tu credi? Che bella domanda, non ho una bella risposta però, Coblo, posso darti però una bella immagine. L'immagine di Planet Mongo è quello di un pianeta sabbioso, di spiaggia, con mare, con grosse onde. In realtà stiamo aspettando la grande onda, l'onda perfetta, o meglio, visto che siamo su Planet Mongo, dell'onda imperfetta. È proprio fare surf nudista. Non so se riesco a spiegarmi, è quello proprio di giocare con i concetti di bene, sono contento. Questo è lo scopo, fare del surfismo nudista. Ovviamente sulle onde dell'underground. Proprio quello di giocare, nel senso che nel momento in cui fai lo spiegone, fai creatività, è uno spiegone creativo, è per questo che è surf, però è nudista proprio perché è il più onesto possibile, anche perché è underground, e se l'underground non lo fai con onestà non è più underground, anche perché nessuno ti paga, ma soprattutto nessuno vuole pagarti. Ma in questo, tra l'altro, hai messo a nudo proprio per parlare di, a furia di parlare di nudi, hai messo a nudo un aspetto importante che in fondo poi a me adesso non era venuto in mente, ma insomma, che poi Planet Mongo è esattamente l'opposto del Dottor Nexus, insomma, diciamo molto verboso, poco appunto sì, incline all'immagine se non alla metafora edificata attraverso la parola, quindi diciamo due prodotti completamente diversi nel quale tu, diciamo, nel quale tu lì dove vige la parola però ti fai aiutare, a volte deleghi in maniera anche molto generosa, e che forse appunto segnano, sono il tuo segno vincente, che poi è appunto quello proprio del proprio della, come dire, della mancanza di spiega, no? se la spiega ci deve essere, che siano gli altri a farla. Cobol, però qui c'è una motivazione del tutto tecnica, nel senso che in Planet Mongo siamo una decina di persone a farlo alla radio, e tu sei l'unico esatto, e tu sei l'unico che non beve in quell'ora e mezza. Anche qui, ma anche qui in questo posto mi hanno fatto bene adesso, perché hanno detto quindi, lo senti un po' sciolto, più va avanti la trasmissione più capisci che a quel punto e meno male che ci sei tu, perché per esempio nell'ultima puntata, quella con Petrolio, tu sei stato fondamentale. Te lo dico anche da parte di Deborah, che dice meno male che c'era Coblo a portare ordine, disciplina, esatto, e serietà. Un altro leninista mascherato. Senti, ultimissima cosa, senza cui ci trattenevo troppo, anche perché poi in realtà poi chi si sentirà questa puntata, non è detto che si possa sentirsi Planet Mongo. Prossimo ospite è la grande Croma di Planet Mongo. Sta avendo un successo veramente fantastico e assolutamente meritato, infatti noi l'abbiamo tolta al Maurizio Costanzo Show, esatto. Lei ha dovuto scegliere quasi non rientra neanche più nell'underground, direi. Esatto. proprio per un pelo, proprio l'ultimo giorno di underground, esatto, di Croma. Esatto, l'abbiamo beccata l'ultimo giorno. Allora, senti, the last day of underground life, è vero, figo. Senti, io ti do questa notizia a te e a tutti coloro che ci ascoltano, questa è l'ultima puntata in questa modalità di Boca Chica Cosmo, la modalità un po' verbosa, esatto. Torneremo sicuramente tra qualche settimana con una versione light, un po' più leggera, in cui tante cose saranno già state spiegate e tante cose. Ma tu e Bimbo non potete fare una cosa più leggera, cioè lo sapete che non. Sì, ma infatti non lo potete. No, ci proveremo, ma insomma. No, possiamo. Io posso. Però ti volevamo proporre in questa seconda edizione, se a te diverte, hai tempo e pensi che abbia senso, di proseguire con o con altre idee o anche con la tua rubrica che a noi piace moltissimo. Che quella può rimanere uguale, che... diciamo, non ha bisogno di cambiare. Beh, ma io infatti avevo già bello che pronto, però purtroppo ho dovuto parlare io, ma avevo già bello che pronto, adesso ve la lancio e sarà per la prossima volta. Valerian, fumetto francese che io ritengo fumetto perfetto, anzi, fumetto di fantascienza socialdemocratica. Ah, perfetto, beh, quindi sì, diciamo, teniamocelo in serbo. Valerian hanno fatto anche un film? Sì, è possibile. Bravo. Ah, ho capito qual è, sì. Io ho visto il film, non ho letto il fumetto, ahimè. Teniamocela per fumetto perfetto. Teniamocela per l'edizione che viene, che stiamo progettando, di cui magari accenneremo verso la fine della trasmissione. Certo. Tu, Bimo, a parte ringraziare e salutare... No, io sono, guarda, il surfisti nudisti, sono, guarda, sono l'immagine perfetta. Abbiamo già chiuso su quello, che poi sono i battle surfers. Sì, anche, che sono perfetti anche a loro modo, anche loro, certo. Andro, grazie, non ti abbiamo presentato in questa circostanza, perché tanto comunque le tue parole ti presentano da solo, e poi il nostro enorme pubblico ti conosce perfettamente. Perfettamente, le moltitudini, i due grandi pubblici che si mettono insieme tra Planet Moon, esatto, e Poca Cica, Cosmodrome, esatto. Che diventa praticamente mezza umanità, e sì. Ti conoscono, insomma. Io vorrei però dire soltanto una cosa, certo. Io ho risposto al telefono soltanto per dire questo, perché del resto che ho detto non credo a niente. Volevo soltanto dire a tutti i milioni di milioni di milioni di radioascoltatori di Boca Chica Cosmodrome che Platu Barada Nitto non è vero, come dice quella serpe galattica di Cobol, che vuol dire fermati, non mi fa male. Vuol dire pace, amore e una sostanza lisergica a vostra scelta, purché sia bio, fatta in uno dei tanti pianeti fuori dalla galassia. Vuol dire questo. Hai ragione, ma quella volta mi hai preso in un momento reazionario, quindi te l'ho deturnata io. Hai ragione. Baci, a presto, grazie. Ciao. Baci. Grazie infinite, ragazzi. Grazie a te, ciao. Ciao. insomma, grazie ad Andro e sì. Intensa intervista. Poi l'abbiamo sentito per la prima volta e abbiamo potuto interagire. Abbiamo potuto interagire, che in realtà era sempre. Volevo sempre fare delle domande, ma fare delle domande a un file non è. Non era facile. No. Questo pezzo meraviglioso, lunghissimo, che sentite sotto e che avete iniziato a sentire, sono i Do Make Say Think, un gruppo canadese bravissimo, secondo me. Beh, sì. Che hanno avuto questo genio, il genio di fare questo album che non mi sono segnato. Il pezzo si chiama Revelation, ma l'album non me lo sono segnato. In un anno è stato fatto un album. Sì, no, gli altri album non sono belli. Questo è bellissimo, questo album, ve lo consiglio, sentitevelo. Comunque loro Do Make Say Think, quindi lo trovate. L'album c'ha tutti gli animali sopra in copertina. Molto molto bello, lo sentite in sottofondo. Insomma, stiamo affrontando le trasformazioni all'interno del capitalismo spaziale. Abbiamo affrontato il corpo, affrontiamo la testa, diciamo, in questa bipartizione cartesiana che non ha nessun senso, ma che noi teniamo per nostro comodo, insomma, per essere un po' più esplicativi. Perché? Perché se alcune trasformazioni avverranno nel nostro corpo, ovviamente altre non solo avverranno nella nostra testa, ma già, così come è tradizione raccontare in questa trasmissione, già stanno avvenendo, perché diciamolo anche sul corpo, no? Abbiamo iniziato dalla Mars Society, dall'Isaac Hayes, per dire che alcune trasformazioni che ci porteranno nello spazio a vivere conformemente al capitalismo spaziale già sono qui presenti e le viviamo contemporaneamente. Beh, allora forse anche delle ideologie che ci porteranno nello spazio sono già qui presenti e noi ce le viviamo. Che dici, Bimo? Beh, probabilmente sì. Probabilmente sì, perché sai che adesso ne andremo a parlare. Beh, sì, lo do per scontato, perché se la risposta fosse no, esatto. E poi cambiamo discorso, esatto. No, non funzionerebbe tanto bene. Partiamo con una citazione. La iperaccelerazione è la chiave di tutto. Solo 5 di loro sono stati sufficienti per impadronirsi dell'astronave, e noi siamo loro proprio per questa accelerazione. Essi sono in grado di accelerare a loro livello altri esseri, come hanno fatto con Compton e con me, mantenendoci in uno stato di schiavitù. Sottoposti a questo trattamento, noi continuiamo a esistere a questo livello accelerato, diventando sorprendentemente docili. Ma se restiamo feriti, invecchiamo molto in fretta, come se questa esistenza accelerata ci bruciasse. Io non so come distruggerlo, ma la sua distruzione è inevitabile. Beh, molti dicono che stiamo transitando dalla società della velocità alla società dell'accelerazione, e in fondo c'è un'ideologia bella e fatta già esistente che proprio ha questo riporta questo tipo di sensibilità all'interno delle teste e delle coscienze, chiamata accelerazionismo che, scusa, dimmi. Sì, diciamo, forse l'accelerazionismo non è nel senso che abbiamo appena. Allora, no, ti sorprenderà. Noi abbiamo sentito una citazione. Hai riconosciuto da dove? Beh, no, la voce no, era questa... quella di Kirk, quindi Star Trek, puntata del 1968, Wink of an Eye. Che in realtà credo che in italiano sia stata tradotta più veloce della luce, una cosa del genere. E 68, e nel 67 Roger Zelazny, un scrittore di fantascienza tra l'altro molto prolifico e molto interessante, che vi consiglio di leggere, scrive questo Signore della Luce, in cui introduce all'interno del proprio racconto questa fazione politica degli accelerazionisti, cioè una fazione politica preposta a portare la propria società a un livello rivoluzionario nuovo attraverso l'accelerazione di alcuni processi, quindi accelerazionisti. Beh, dall'accelerazionismo, che nasce dalla stessa pentola ribollente della fine degli anni 60, cioè dalla seconda metà degli anni 60, dall'eresia di Ballard, no? Nel suo manifesto con cui Ballard taglia i ponti con la fantascienza quotidiana, tradizionale, quella delle grandi praterie della conquista dello spazio, che poi non era tutta così, ma insomma prevalentemente così, dando poi là quello che sarà negli anni 80 il cyberpunk, nascono due correnti fondamentali, che sono quelli del cyberpunk e quello dell'accelerazionismo. Cyberpunk, che noi ci viviamo negli anni 80 in maniera controculturale, una distopia controculturale rivolta in senso opposto, con un verso e con un senso opposto rispetto all'ottimismo yuppista degli anni Ottanta, fondamentalmente. Sì, quindi... non si può dire che il cyberpunk sia ottimista. No, tra l'altro ogni volta che noi parliamo della distopia oggi come il male assoluto, lo facciamo non in senso assoluto, ma perché la distopia invece degli anni Ottanta, in quel periodo lì, in quel periodo di eccesso di eccitazione per il capitalismo e per il benessere e per l'edonismo, ha funzionato da un momento culturale. Oggi invece in realtà la distopia molto spesso nella fantascienza non è altro che ratifica dell'esistente, insomma, quindi ha poco a che fare con l'utopia in senso stretto. Io adesso dirò una cosa molto impopolare, però è sicuramente vero che il cyberpunk proponesse una distopia, ma era una distopia di una figaggine tale che molti, diciamo, in qualche modo per un breve istante, poi ci siamo trovati a viverla e ci siamo resi conto che effettivamente era una distopia, ma per un momento, almeno personalmente, è stata un po' meno distopica, non so come dire. Ma assolutamente, poi tra l'altro ha segnato una differenza sostanziale, un differenziale sostanziale tra quello che era un po', che è stato un po' fino agli anni Ottanta l'idea della politica e della rivoluzione intesa come la presa del palazzo d'inverno. Il cyberpunk, con la sua restrizione dal punto di vista delle prefigurazioni temporali, ci ha riportato un po' a una sorta di politica dell'immediatismo di cui gli anni 90 poi hanno, attraverso libri tipo la Taz, attraverso quel tipo di immaginario, riviste anche di ma lo stesso Decoder o diciamo riviste che nascevano proprio in seno al cyberpunk, assolutamente, cioè. erano fortemente politicizzate e portatrici di una distopia utopistica che era ancora il frutto, diciamo in questo caso avvelenato, di quell'onda lunga di ottimismo del capitalismo degli anni 80. Quindi assolutamente parliamo di distopie completamente diverse. E l'accelerazionismo sopravvive molto di più al cyberpunk, anche se si innesca un po' dopo, e si sdoppia in due correnti fondamentalmente, una di destra e una di sinistra. Già questo è molto inquietante, che una stessa corrente possa in qualche modo, però anche un po' il segno dei tempi, no? Il segno di una certa trasversalità, bisogna dirlo, delle lotte che oggi ai movimenti si propongono. Abbiamo parlato anche con Andro, no? Tutto sommato, questo fatto della fantascienza di destra, e quindi diciamo a partire da un dispiace dirlo, però comunque da un terreno comune in qualche modo, però si arriva ad esiti completamente diversi. Sì, assolutamente, l'accelerazionismo si presta molto a questo sdoppiamento in due figure di eccezione che sono un po' forse poi la sintesi di queste due correnti: da una parte a sinistra Mark Fisher, dall'altra Nick Land, anche se sono le due figure un po' più rappresentative di questa corrente. Diciamo, di per sé l'accelerazionismo non presenta grandi novità rispetto al cyberpunk, perché poi in fondo dalla stessa fornace nascono, però diciamo c'è meno sicuramente all'inizio impatto distopico rispetto alla realtà, anche impatto immaginifico, cioè qualcosa di un po' più ancora più realistico rispetto al cyberpunk, e soprattutto c'è l'idea di fondo che un'accelerazione dei processi tecnologici, soprattutto, quindi diciamo scienzo-tecnologici, come definirli, scienza-tecnologici, porteranno per la sinistra a una superazione delle sperequazioni, di quelle che sono le sperequazioni e delle disparità sul nostro pianeta, per la destra invece ad una sempre più estesa distanza tra quelli che sono i possessori dei processi che controllano i processi di produzione tecnologici e invece coloro che non lo sono. Questa accelerazione è un'accelerazione che dovrebbe portare anche in chiave neoliberista all'asfaltamento di tutto in nome appunto di un progresso e di una sopravvivenza soprattutto del capitale che oggi agonizza appunto. E noi parliamo qui in questa trasmissione, parliamo di capitale agonizzante, come di fatto il capitale spesso lo è proprio per sua natura. Sì, il capitale ha questa caratteristica di agonizzare ciclica, sempre. Esatto. E che si sta appunto poi. Infatti, la space economy è semplicemente una, se vogliamo, uno degli aspetti forse più evoluti appunto di questa accelerazione fondamentalmente. Però c'è da dire che, diciamo, se noi dobbiamo oggi valutare la situazione in cui viviamo, dal punto di poi alla fine anche la società distopica del cyberpunk è una società in cui una classe ha preso assolutamente il sopravvento su un'altra, no? In modo assolutamente macroscopico. E poi noi lo viviamo, i numeri lo dicono in questi anni, la distanza tra i padroni, adesso cerchiamo di semplificare le cose. I borghesi, chiamiamoli borghesi. No, no, non sono borghesi, perché... Ma io voglio chiamarli come li chiamava Marx, borghesi. Non lo so, sì, ok, vabbè, borghesi, vabbè. Era una provocazione. Per carità, io, chi sono io? Marx ha detto, chi borghesi, sono io? Chiamali borghesi. I borghesi. E gli altri si è... la differenza è aumentata. Ed certo. È un pochino quello che dicevo prima. Cioè, quello che prima era distopia e che adesso è una distopia in qualche modo attraente, perché aveva... quello che dicevamo prima. Una controculturale, non sì, a caso era punk. Sì, esatto, era punk. Adesso che era invece in qualche modo è diventata la nostra realtà, se non del tutto, ma comunque molti aspetti di quella distopia sono diventati la nostra realtà, è un po' meno attraente. Assolutamente, per questo che noi spesso diciamo che nel discorso che spesso fa per esempio l'antagonismo, nel citare le distopie contemporanee, in realtà si presta al fianco, questo, diciamo, questo esercizio presta al fianco proprio a una ratifica di quello che è il pensiero, purtroppo, anche se è critico, parte della destra. Questo è un problema della distopia, in realtà. Questo è un problema, no? Della distopia, ma è un problema di contestualizzazione della distopia, perché come dici tu, la distopia degli anni Ottanta non aveva questa funzione. La distopia nell'inizio secolo ha questa funzione di ratificare il presente, insomma, invece no, non è più controculturale, ma è ratifica del presente, è fotocopiare il presente. Però la distopia non propone un'alternativa di per sé, no? La distopia è un po' un arrendersi, secondo me, io lo vedo in questo modo. Assolutamente. Quindi ha in sé i germi della resa in qualche modo. Assolutamente, però torno a dire, insomma, negli anni 80 o della resistenza perdente. Assolutamente, ma lì negli anni 80, dove in realtà l'ottimismo era vigente, il pensiero controculturale distopico era controculturale, appunto, aveva una funzione, aveva una funzione di inversione di tendenza, insomma, cosa che non ha oggi. Insomma, c'è questo discorso che sembra molto teorico, in realtà si materializza nei due personaggi che abbiamo citato, ma anche in un personaggio che abbiamo già trovato nella puntata scorsa, che è Stephen Bannon. Eh sì. No? Che appunto diciamo, entra a far parte anch'egli in qualche modo della corrente accelerazionista, fino a finire come consigliere di Trump. Quindi, diciamo, un discorso, una filosofia tutt'altro. È durato non tantissimo, c'è da dire. Beh, sta durando ancora, però. Sta durando. Sì, è ancora. No, perché... sta durando ancora il pensiero trumpiano, la distinzione. Dicevo Bannon come consigliere. No. Lui adesso si è ritirato, un po' come Nick Land, si è un po' messo dietro alle quinte, ma in realtà fondamentalmente. Insieme a Trump è colui che in qualche modo sta producendo questa che è la grande spaccatura, ovviamente una prossima guerra civile americana da questo punto di vista, tra coloro che appunto si riconoscono il nuovo presidente Biden e coloro che invece non lo riconoscono. Non è mai accaduto una cosa del genere, se non forse proprio Jacobin dissente da quello che tu stai dicendo. Ho letto un articolo interessante in cui questa visione viene messa molto in discussione. Va bene. È interessante, io non sono necessariamente d'accordo. Però. Va bene, ma questo è giusto. Ti mando un'altra citazione un po' lunga e poi proseguiamo. Dimmi allora per quale scopo ci hai chiamati. Ti risponderò, terrestre. Un tempo gli abitanti del pianeta costruirono macchine perfette e complesse che svolgevano per l'uomo tutti i lavori. Gli abitanti del pianeta erano felici. Ed il loro unico compito era quello di controllare le macchine. Soltanto questo faceva l'uomo, ma si stancò ancora. Io fui costruito proprio per controllare le macchine dell'intero pianeta e per costruirne di nuove. In pratica l'uomo aveva abdicato ed io avevo ereditato il suo potere. Un giorno però il pianeta fu attaccato da astronavi sconosciute. E le macchine andarono distrutte. Gli abitanti regredirono rapidamente. Io solo, infatti, conservavo il ricordo per ricostruire le macchine. E tuttora sono in grado di farlo. Macchine potenti e imbattibili che io guiderò alla conquista delle galassie. Voi dovete aiutarmi a sostituire alcuni circuiti che furono distrutti dalle astronavi sconosciute. all'assenza di quelli la mia memoria è bloccata. E i nativi del pianeta hanno troppa poca intelligenza per essere utilizzati. Per questo vi ho chiamati terrestri. Il mio raggio qui indicherà dove sono i circuiti da sostituire. Prendete il circuito con la sigla X, terrestri. Sembra che ci provi gusto a chiamarci terrestri. Lo dice con disprezzo. Inseritelo nel contenitore alla vostra destra. Più svelto, terrestre. Più svelto, non abusare della mia pazienza. Presto, dovete sostituire molti circuiti. Sono impaziente, avete solo cominciato. Bastava solo un circuito e voi lo avete già inserito. Il solito Alfonso Brescia, uno dei tanti film che in realtà noi faremo in questo famoso cineforum, che prima o poi faremo, cineforum di Boca Chica Cosmodon. Guerra nello spazio 76. Qui a Forte Prenestino. Qui a Forte Prenestino. Se, cioè, ricordiamo, se non ci cacciano via prima. All'inizio lo ricordavamo sempre, adesso ogni volta che rientriamo in... vabbè, insomma, siamo scontato, siamo a Forte Prenestino, questa è Radio Chica, Boca Chica Cosmodon di Radio Forte, Radio Chica. E tra l'altro film che abbiamo beccato proprio nel momento della spiega, nel momento in cui che è diventata proprio per la protagonista della nostra trasmissione. Esatto, proprio per, diciamo, per tenere fede alla promessa. Boca Chica Cosmodrom, la trasmissione senza la spiega. Proprio per tenere fede, insomma, alla promessa. No, in realtà no. E alla prospettiva di visuale di Andromalis. Beh, insomma, perché abbiamo mandato questo pezzo? Perché in realtà rappresenta un po' quella che è una singolarità tecnologica, cioè ovvero questo robot che attira in questa trappola gli umani per poterli poi utilizzare come propri schiavi. Un tema abbastanza ricorrente, se non che fatto in un film italiano di Alfonso Brescia, A Costo Zero, di cui abbiamo già spesso parlato, diciamo, regista interessantissimo, pieno di sorprese, soprattutto con i poliziotteschi e con una serie di altri film di quell'epoca, ma anche con, insomma, con la sua fantascienza. Singolarismo che ha molto a che fare con l'accelerazionismo e che rafforza l'idea, appunto, accelerazionista, che nasce sempre più o meno nella stessa epoca. Siamo nell'86 e lo scrittore in qualche modo, lo scrittore che tira fuori questa idea è Vernon Stephen Binge. In realtà io di lui non ho letto poco, per cui non saprei, non saprei dire. Neanche io. Il racconto in particolare è Marooned in Real Time, 86, in cui non solo in questo racconto, ma questo è assolutamente il racconto più significativo, viene espressa tutta una sorta di filosofia che, appunto, prenderà poi il nome di singolarista, che è sostanzialmente una filosofia che, proprio come l'accelerazionismo, tende al raggiungimento di un livello tecnologico che prima o poi, come dire, sfuggirà di mano addirittura a chi l'ha realizzata e porterà allo sviluppo di una società inaspettata, probabilmente una direzione o nell'altra, no? come nel pallino, sicuramente bellissima, come nel pallinometro, quando la palla cade e si forma, cade sempre nel posto sbagliato, no, e si forma la curva gaussiana. Vabbè, insomma, un po' di scienza in questa tradizione. E comunque di transumanisti stiamo parlando, parliamo di transumanisti, perché sia il citato accelerazionismo che il singolarismo in realtà rientrano poi in quelle correnti transumaniste, proprio che guardano al superamento di alcuni limiti tipici della nostra specie, e tutto i mutamenti, insomma, no, della bioingegneria genetica di cui abbiamo parlato. Quando tu hai fatto l'elenco dei geni sembrava un qualcosa che potrebbe scrivere la Monsanto in un volantino pubblicitario, vero, no? Che pubblicizza un nuovo tipo. Prendete di rape. Questa pasticca come dire, resisterete ai raggi cosmici. Esatto, esatto. Sì, ma infatti è quello, per quello che poi in fondo, come dire, ecco lì che, no, le due cose si legano, l'idea, appunto, della trasformazione della testa attraverso queste filosofie transumaniste, che si sposa con la trasformazione esattamente del corpo, di un corpo che si sta iniziando a a procedere, a muoversi, a diventare forza lavoro per lo spazio. Insomma, lì dovevamo arrivare e lì siamo fondamentalmente arrivati. Nessuno ci ha fermato e noi ci siamo arrivati. Neanche Andromalis ci è riuscito. No, neanche. Col suo... E neanche i disturbatori, che qui anzi li salutiamo. Esatto, si concetta che non hanno fatto altro che disturbare, a parte portarci del cibo, ma ci hanno disturbato, anzi non sto scherzando. E sì, Andrea sì, molto. E, transumanisti, figura di riferimento, molto velocemente questo andiamo a chiosare, Kurzweil, da noi in Italia noto soprattutto per la creazione di strumenti musicali, ma che in realtà invece è un filosofo, diciamo, forma di per sé un gruppo di pressione sulla politica statunitense per tentare di dirottare la ricerca scientifica in alcune direzioni piuttosto che in altre, che sono appunto le direzioni proprio del transumanismo, che in qualche modo, tra l'altro, lo dicevamo qualche tempo fa, e adesso ti lancio la palla, con te e Bimo richiamano anche il cosmismo. Eh sì. Il cosmismo che in qualche modo conteneva in se stesso due concetti che abbiamo visto nelle ultime trasmissioni, perché conteneva sia il terraforming, cioè la possibilità di determinare l'ambiente in cui si vive, sia anche il transumanesimo, cioè il fatto che l'umanità, espandendosi nel cosmo, si segmentasse a seconda dell'ambiente che si trovava ad occupare in non proprio specie diverse, ma comunque in molti rivoli. Certo. E la cosa veramente importante è che tutti questi processi avvengono sotto controllo, non sono molto diversi, per esempio, dalle citazioni di Expanse che abbiamo visto, in cui le trasformazioni avvengono malgrado, no? Certo. Queste sono delle trasformazioni che avvengono per. Esatto, ed è uno delle caratteristiche fondamentali del cosmismo alla fine, no? Assolutamente, e visto che parliamo di trasformazioni, torniamo un po' indietro con la mente a quello che, ad esempio, Forte Prenestino è stato per tanti anni. Dicevo, torniamo un po', lo abbiamo interrotto anche questo pezzo, ma insomma, abbiamo ancora alcune cose da dire. Kerosene 454, che sono un po' gli eseguitori, non solo loro, un po' di quella che è stata la scena di hardcore di Washington DC, quindi Fugazi, che qui insomma a Forte Prenestino hanno sicuramente riscosso successi, hanno fatto ispirato, sì, insomma, diciamo, anche loro hanno registrato per la Discord. Questo è l'album, secondo me, più bello del 96, Come By To Kill Me, che il pezzo è... una versione metal del Boreo di Lavelle, si potrebbe dire. Che strano, però vabbè, sì, forse sì. No, metal no. Forse non si può dire metal, no. Ritiro il metal. Sì. Assolutamente d'accordo. Allora, ultimo aspetto, ultimo segmento della trasmissione di oggi, dell'undicesima puntata di Boca Chica Cosmodromo. Ricordiamo, siamo sempre a Forte Prenestino, dentro Forte Prenestino in diretta. E sano femminismo. Xenofemmismo come frangente cosmo anticapitalista, anche se poi abbiamo avuto già Andromalis che ce n'ha parlato, ma lo riaffrontiamo. Xenofemmismo che è una delle varianti del cyberfemminismo, oggi forse un pochino caduta in disuso, se vogliamo, da questo punto di vista. Se ne parla. C'è un equivalente di destra di questo, no? Madonna, che domanda difficile. No, non credo, no, perché il xenofemmismo... Almeno quello. No, il xenofemmismo no. Però perché ne stiamo parlando? Il xenofemmismo non parla assolutamente di spazio, però parla dell'alienarsi, cioè del rendersi autonomamente e consapevolmente distanti, diversi da tutto ciò che è terrestre e tradizione terrestre. Qui terrestre è intesa come tradizione, cioè come tradizione appunto paternalistica. Patriarcale. Patriarcale, ovviamente. E diciamo una delle sicuramente uno degli aspetti più interessanti è proprio quella che lo xenofemmismo introduce con l'idea di una trasformazione consapevole. Quindi trasformiamo il nostro corpo a seconda di quelle che sono le nostre esigenze, cioè abbandoniamo fondamentalmente l'idea di un corpo stabile, un po' focolteanamente, no? Diciamo, mentre Foucault ne fa una denuncia, lo xenofemmismo ne fa una sorta una bandiera. Esatto, una sorta di manifesto. Riappropriamoci del nostro corpo e trasformiamolo nella direzione che più ci quindi piace. Non nella direzione del modo di produzione, ma nella direzione, allora, che decidiamo noi. E beh, questo aspetta, perché adesso ci arriviamo. Diciamo, a fondamento del pensiero xenofemminista che abbiamo stritolato in pochissime parole. No, non tu, diciamo, lo stiamo stritolando per esigenze di spazio, siamo andati per carità molto, molto veloci. E stritoliamo tutto noi stritoliamo qualsiasi cosa, interrompiamo i pezzi, siamo veramente dei nichilisti. Esatto. non si sa, scusate, l'arte, qualsiasi cosa. Torneremo più educati. Alla base di questa, diciamo, di questa tendenza c'è in generale un concetto che poi si estende ad altri processi della trasformazione del corpo, che è quella dell'ectogenesi, che proviene allo xenofemminismo dalla femminista Firestone, il suo libro La dialettica dei sessi. E le trasformazioni quindi che noi potremmo assolutamente dovremmo apportare al nostro corpo sono sia genetiche che somatiche, e in qualche modo dovrebbero essere in direzione con una trasformazione. Una curiosità, ma che differenza c'è? Nel senso, una trasformazione stabile come fa a non essere genetica? Adesso comincio a rompere le palle. Potrebbe essere una trasformazione tradizionale, culturale, somatica. Somatica, però allora vuol dire una trasformazione individuale, nel senso che io, che ne so, mi impianto un terzo braccio, per capire, ma cosa non è somatica? Sì, diciamo sì, okay. Beh, lo è, sì, sì, sì, sì, sì, lo sì, è anche. Certo. Ma non è una trasformazione stabile, cioè è mia come individuo. Vabbè, io chiedo, potremmo se mettiamola così. Anche perché sono un ignorante totale. Non sono. Sì, ci sono delle xenofemministe all'ascolto. Vi prego, mettetevi in contatto. Perché noi siamo confusi. Non mi arrogo il diritto di rispondere per le xenofemministe. Do un mio parere, che è quello che secondo me, se questa modifica poi. C'è un collettivo xenofemminista a Corte Prenestina? No, ma. Allora, no, torniamo nella. Io chiedo no, non alle c'è. Compagne non un aiuto. Non c'è, vabbè, ma perché te lo sto dando. Allora, no, diciamo che se la trasformazione somatica probabilmente è una trasformazione che può essere utile per tutta la specie, potrebbe essere adottata in toto dalla specie, ma questo diventa genetica, però, è una questione politica. Io stavo facendo questa distinzione di Anna Caprina. È una questione politica. Diciamo che se noi scopriamo ad un certo punto che è meglio impiantarci un terzo braccio, stiamo molto semplificando, ma ci impiantiamo un terzo braccio, così come se noi riconosciamo che ad esempio il parto possa rientrare all'interno delle cosiddette insicurezze del processo lavorativo, allora possiamo aspirare all'ectogenesi come processo di progressione e di mantenimento della specie. Questo in qualche modo fare una domanda? Scusami, finisco. Questo in qualche modo, un attimo, questo in qualche modo per il parto al di fuori del corpo della donna. Perfetto, questo per garantire, proprio come su un qualsiasi rapporto qualsiasi rapporto tra essere umano e il lavoro, le adeguate condizioni di salvaguardia del corpo. Per il parto ancora oggi si muore e ci sono vari rischi, quindi perché la donna dovrebbe sottomettersi al parto naturale quando è inutile che scuotete la testa, non è che questa è una cosa dal pubblico si suggerisce anche nel lavoro. Vabbè, appunto, sì, è esattamente questo. No, però, diciamo, la riduzione al lavoro è sicuramente uno degli aspetti, no, diciamo, più banali. Sono assolutamente... Non sei mai stato così critico rispetto a nessuna cultura cosmo anticapitalista. Sullo xenofemminismo devi no, fare... Non sono... Il ridurre i rischi è assolutamente una cosa ottima, ma farlo in ottica di lavoro mi sembra un po' inquietante. Nel senso che anche lì c'è un rischio, e anche così come noi mettiamo in campo una serie di norme, una serie di precauzioni in campo lavorativo, perché non farlo su alcune procedure che noi consideriamo naturali, perché invece possono ancora oggi portare verso la morte. Non vorrei venire fuori come un sostenitore della mistica, della maternità. Ho capito quello che dici tu, ma io diciamo la mia era una semplificazione. E anche della paternità. Sì, era una semplificazione, ma era poi più nell'ottica della Feistone questo processo. Diciamo, nello xenofemminismo c'è più un processo generale di trasformazione della specie, dell'alienarsi, cioè una sorta di reinterpretazione positiva del concetto dell'alienazione, se vogliamo, no? Cioè un'alienazione che marxianamente è sempre stata intesa come il distacco doloroso, con una tensione negativa, il distacco doloroso diciamo dell'uomo dal proprio prodotto lavorativo, dalla complessità del processo nel quale è immerso, nella sua atomizzazione. Qui è visto come un processo assolutamente, è letto, è interpretato come un processo assolutamente positivo di distacco da quelli che sono processi che noi consideriamo naturali e quindi immutabili, e che invece oggi la tecnologia consente di trasformare. L'ectogenesi è uno dei tanti, ma insomma ce ne sono molto altri. Io vi consiglio di leggervi il manifesto dello xenofemminismo, che trovate anche in rete, che tra l'altro tradotto anche in italiano, se non sbaglio, che è molto molto interessante. Dicevamo, quindi una variante in generale di quello che è il cyberfemminismo, proprio perché implica questa concezione, se vogliamo, come dire, cosmopolita di interazione, anche cyberpunk, appunto, cosmopolita di interazione del corpo umano con tutta una serie di altri soggetti che sono soggetti inanimati, diciamo, di interazione positiva, di interazione accrescitiva. E vengo brevemente a quello che dicevi tu, quindi c'è, cioè, adatta per, diciamo, io in questo mi sento di sollevare un dubbio, che solleviamo spesso, che è quello sollevato all'epoca da Hannah Arendt, scrive in tutt'altro periodo, quindi di xenofemminismo non parlava e non ne sapeva nulla, ma quando parla di acosmismo, quindi di distanza distanza prodotta da livello tecnologico dell'essere umano dall'ambiente dal quale proviene, no? Di cui il viaggio spaziale in qualche modo sarebbe l'apoteosi, cioè il poter guardare la Terra dal di fuori, esatto. Ti dà la sensazione di poterla dominare, di essere altro da quella. Allora ecco la critica, se vogliamo, ecco la precauzione, ecco, diciamo, bisogna stare attenti, e lo annunciavi prima tu, che queste trasformazioni a cui noi in qualche modo auspichiamo in maniera positiva, come fa lo xenofemminismo, non siano a volte un po' troppo adeguate alle trasformazioni che il capitale ci sta imponendo. Certo. Questo è un rischio, diciamo, secondo me, che lo xenofemminismo non ha preso abbastanza in considerazione, cioè nel senso, trasformazione ok, l'alienazione ok, sentirsi alieni va benissimo, ma siamo sicuri che non sia già ciò che il capitalismo ci sta chiedendo di fare? O in altre parole, nel momento in cui noi abbracciamo questo tipo di processo, siamo veramente in grado di poterlo controllare? Di governarlo. Infatti la questione è questa per lo xenofemminismo: la trasformazione è in atto, non la subiamo, governiamola. Però la critica, o comunque non la critica, perché non si tratta neanche di critica, ma quanto dicevo, più di precauzione, mentale, secondo me, di riserva mentale, è proprio quella di governare il processo stando ben attenti alla possibilità che anche governare il processo non significhi sottomettersi necessariamente già a quelli che sono i dettami di cambiamento che il capitalismo sta portando. E quindi non governarlo granché alla fine. governarlo parallelamente, possiamo dire così, cioè diciamo percorrere una strada parallela che ci porta, come dire, le rette parallele in uno spazio locale non si incontrano, ma come sappiamo nello spazio che non è euclideo, nel punto improprio si incontrano, a un certo punto si incontrano, quindi ecco quello può essere il pericolo. Comunque prospettiva assolutamente d'avanguardia, anch'essa transumanista, però che mette un sassolino nella macchina, nell'ingranaggio del cosmocapitalismo in chiave cosmo anticapitalista, anche se appunto in qualche modo si spinge così tanto oltre che ci viene un po', giustamente tu l'hai sollevato e io un po' ti prendevo in giro, a lì dovevamo arrivare, ci spinge un po' a essere cauti e a guardarlo con ammirazione, ma con anche un certo spirito critico, sicuramente, e un vago timore anche. Sì, no, ma non sicuramente non perché appunto non per l'opposizione al concetto di mondo naturale, assolutamente. Quello ovviamente l'abbiamo già detto tante volte, non è come dire assolutamente un'invenzione il mondo naturale, quindi che noi siamo proprietari e siamo assolutamente capaci, e già tutto ciò avviene nella terraformazione dei corpi, nella terraformazione della terra, nella trasformazione. Ecco, l'autogoverno deve stare attento però secondo me al fatto che comunque il capitalismo è più dinamico di quello che noi ci immaginiamo, quindi anch'esso è già in continua totale trasformazione e quindi a volte si rischia di assecondarlo involontariamente. Con questo è il punto, ultimo pezzo e poi andiamo in chiusura. Esatto. Se sei d'accordo con questa trasmissione, assolutamente, io andrei avanti tutta la notte, ma molto molto lunga. Beh, intanto ti impegno io dopo perché mi devi aiutare a spostare un po' di roba. Не виделись мы с вами, друзья, давным-давно. Забот у нас немало и дел полным-полно. Но для чего придуман когда-то телефон? Давайте созвонимся, пусть нам поможет он. Tagliamo anche questo che brutalmente. Viktor Saltykov, che è una star degli anni 80 russa, sovietica. Oh, che sembra un po' Plastic Bertrand, ma... è vero, Plastic Bertrand del 1984. No, allora, vicino a questo pezzo, non so perché poi tutti i pezzi come quella anche prima è russo, o sono io che interpreto male, no, c'è scritto 1984 che non so se è la data o se è il titolo, ma comunque diciamo che comunque anche fosse il titolo, tipo un'ondata, anche l'ondata del... Vabbè, insomma, Bimo, lo abbiamo accennato, ultima puntata di questo ciclo. Di questo, esatto, ciclo di Boca Cicacosma. Vuoi dire qualcosa su questo? Ma niente, questo ciclo finisce la parte forse un pochino più verbosa della trasmissione, che però ha una sua funzione, perché sono le fondamenta della prossima stagione, dove se noi vi parleremo di, che ne so, terraformare la terra, vi parleremo di posadismo, voi saprete già di cosa stiamo parlando, non ci sarà più bisogno di spiegare, perché la spiega, che è un concetto che in questa puntata è già stata fatta in queste 11 puntate. Sì, sì, puntate che servivano un po'... Lo spiegone, si potrebbe dire. Puntate che servivano un po' a essere propedeutici rispetto a un argomento che sicuramente non è tra i più battuti e non è tra i più noti e conosciuti. Speriamo quindi, soprattutto intanto, di avervi dato degli spunti di riferimento. Assolutamente. La nostra idea è quella di prenderci una pausa di qualche settimana, ma di tornare sempre in questa slot di orario, però in un'ora sola, non più di due ore, Quindi in un'ora sempre il giovedì, e quindi dalle 9 alle 10. Diciamo, esatto. Non subito. No, il mercoledì. Il giovedì. Ah, scusate, il giovedì è la ciclofilia. ormai. Cobo sta cercando di fare della disinformazione, esatto, no, e di sabotare. Quella è la ciclofilia. No, il mercoledì. Ma e allora a me non rimane che dirvi che noi comunque terremo anche in questo periodo di sospensione il Telegram attivo. Quindi se volete aderire in massa potete sempre farlo. Anzi, saremo ancora più attivi forse. Esatto, perché Telegram, avremo più tempo. Non ci prenderemo più di tanto, cioè forse 2 o 3 settimane, vediamo un attimo. Sì, una cosa del genere. Di capire, di fare anche un po' mente locale. Noi ci siamo molto divertiti e vogliamo continuare a trattare questo argomento. Però proprio esattamente come diceva Bimo, con uno spirito leggermente diverso, che può fare a meno di tante precauzioni quando andremo a parlare di alcuni temi, perché esisteranno i podcast, esisterà uno storico rispetto alla e quindi quando non capirete qualcosa che stiamo dicendo, sicuramente in una di queste 11 puntate ci sarà. Esatto. Mi permetti di dire, faccio questa cosa un po' inelegante, insomma, che parte delle cose che ci siamo detti le trovate anche su 2 libri che sono stati... Assolutamente, no, lo devi dire. Uno è Marte oltre Marte, l'altro è Cosmo anticapitalismo, che sono 2 libri che mi sono dilettato a scrivere. Esatto, non so se si è capito, ma l'intellettuale italiano ho parlato in queste puntate non è altri che Copo. Sì, è un intellettuale disorganico, è un po' pappinoso. Comunque, vabbè, ti ringrazio molto, no? Faccio riferimento. No, io sono. Cioè, non lo dico con né con sarcasmo, lo dico con una certa ammirazione. Ah, tutto sommato. La stima è reciproca, per cui è ancora più. Anche il pubblico in sala concorda con me. Bene, no, ma siamo tutti felici, siamo molto felici di come sono andate queste 11 puntate. E 12 in realtà, ricordiamoci che in realtà sono 12 puntate, sono 11 di Boca Chica e una di Bogdano con Cosmodrom, che purtroppo abbiamo fatto una sola puntata, forse vedremo se riprenderla nella prossima stagione. Dicevo, continuate a seguire i programmi di Radio Forte, continuate a venire a iniziative di Radio Forte, tra l'altro domenica prossima c'è Planet Mongo. A questo punto io non riesco a capire come ho fatto a non ascoltare neanche una puntata di Planet Mongo finora. Credo che non trovi neanche podcast, perché c'è questa non ci posso credere. Adesso devo capire bene con Andro, ma veramente una trasmissione estremista, molto estrema, oltre la senti in quel frangente, esatto, oppure ciao, capito, oppure bene. Niente. Salutiamo tutti coloro che hanno partecipato, collaborato sia qui a Forte Preneste, ma anche attraverso la nostra chat, inviandoci commenti, inviandoci spunti. Assolutamente. E ricordiamo sempre che comunque sono sempre in palio dei bellissimi adesivi che se ci venite a trovare. Non si sta più bene dove a questo punto. C'è la ciclofficina per qualche settimana, sennò poi si saprà. La ciclofficina aperta giovedì è anche una filiale di Boca Chica. Giusto. Anche perché la bicicletta abbiamo detto che ha. A che fare con lo sport. Esatto. Sì, assolutamente. Esatto. Bene, io ringrazio anche. E se non l'avete capito quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti, c'è la spiegazione. C'è la spiega. Io ringrazio anche Bimo e Andrea, che negli ultimi giornate di Boca Chica mi hanno sfamato. E con questo ti volete soldi, chiaramente. No, adesso ci hai proprio pubblicamente. Prima ci hai ringraziato, poi ci hai distrutto. Esatto. Io vi mando un pezzo francese, un pezzo, diciamo, tipicamente della Cold Wave francese, un po' triste, perché è un po' triste che chiudiamo, anche se poi ritorneremo. E si chiama. Loro sono, Andrea, correggimi, Trisomie. Trisomie 21, e il pezzo Concetta si è svegliata. Trisomie 21 con la Fête Triste, che è la festa triste, che appunto segna questa chiusura di questo primo ciclo. Vi ringraziamo ancora tutto, veramente grazie ancora a Forte per essere. Non interromperemo questo brano. Non lo interromperemo fino alla fine, e buonanotte e a presto. A presto.